voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese, quinta puntata. Sulle colline dopo Novi ci fermammo a sgranchirci. Stetti un poco nel sole, c'era un'aria più libera. Anche le piante erano piccole, contorte. Non ne avevo mai viste così. Linda mi chiese: dove siamo? Arrivammo affamati e contenti. Lubrani scese in un caffè a cercare Carletto. Era pieno di sole, di gente e di fumo. Chiesi a Linda, che beveva il caffè, dov'è il porto? Lei mi disse: sull'acqua. Poi uscimmo a pranzare e mi accorsi che in fondo a una strada era vuoto. Sembrava il cielo visto dietro a una collina. Era quello, un colore leggero. Tanto basso, pensai. Mi stupiva la gente che andava e veniva e nemmeno guardava laggiù. Com'è la gente, mi dicevo. Non lo sanno di vivere a Genova. Nell'osteria, un buco caldo in un vicolo, Linda tornò di buon umore. Mangiava di gusto e a me piaceva vederla mangiare. Con Lubrani cercarono non so che bocconi. Il cameriere era un continuo corri e porta. Sul più bello arrivò quel Carletto. Era gobbo, rideva tutto e gli demmo una sedia. Dagli occhietti e dal fare sembrava un ragazzo. Ci disse: questa chi è? Quando Linda gli tese la mano. Poi si conobbero e il gobbetto non la finiva di toccarla. Si fecero i complimenti, lui perché Linda era cresciuta, lei perché Carletto guadagnava. Intanto venne da mangiare anche per lui. E un po' mangiava, un po' fumava e rideva. Era nervoso come un gatto. Tanto tempo è passato. Ne ho conosciuta della gente. Carletto l'ho visto non rider più, ma mi ricordo quella volta come fosse ieri. Non so perché, m'ero fissato che fosse di Genova, siccome aveva gli occhi chiari e ci vedevo anche il mare. Ma quando gli dissero che suonavo e chi ero, mi capì al volo e disse: ho fatto il Meridiana. Avevo un testone e i capelli ricciuti, ma accorsi che invece di ridere ghignava soltanto. Non diceva ne ho viste, ma sapete com'è. A Lubrani strizzò l'occhio e disse: mangiati fa bene. Era gobbo, era storto, sembrava una molla. Pensare che con Linda si era dato del tu da ragazzo mi teneva incantato a sentirlo. Avrei pagato per sapere chi era Linda da bambina. Lei diceva che andava e veniva con lo scatolone sul braccio, che un vecchietto una volta l'aveva fermata per dirle: vieni a casa mia, lo riempiamo di dolci. Che sulla porta c'era sempre un giovanotto che le dava un biglietto per qualcuna e quattro soldi, ma poi voleva la risposta favorevole. Linda rideva raccontandole. Era un'altra. Era Linda. Io volevo sapere in che cosa fosse stata lei. E Carletto, fumando, masticando, qualcosa ci disse. Tu, Lubrani, diceva, ne hai fatte tante, ma non questa. Non sei riuscito a far di Linda una spostata. Dici, Linda, quante volte ti ha detto che dovevi ballare, che dovevi cantare, che dovevi farti un nome? Mi ha perfin detto che voleva portarmi a Parigi. Ma scalzone. Ma volevo instradarla alla scena, disse Lubrani. Lo sapevi anche tu, ancora adesso si potrebbe. Ti perdoniamo se volevi sverginarla. Non è niente, perdonalo, Linda. Ma quando rinasce dobbiamo spiegargli che è meglio farla mantenuta che la cagna. Mi ricordo, disse Linda, che metteva soggezione anche a me. A 15 anni non ci sei cascata, eh? Lubrani, l'hai trovata una testa sul collo, non attacca con tutte. Lubrani ordinò del liquore, rideva nei baffi. Non dire troppe porcherie, lo avvertì. Linda è insieme con Pablo. Fu qui che Carletto ci chiese chi ero e poi disse: ho cominciato al Meridiana. Mai cantato, gli dissi. Non sono instradato alla scena. Credo bene, fa lui. Voglio dire che sono di Vanchiglia e che ho tutti gli amici a Torino. Da ragazzo suonavo l'armonica. E adesso hai fatto compagnia, disse Linda. Ti va bene? Sai com'è, disse lui. Già sapevo che si era giocato un contratto a Sanremo per voglia di ridere. Una storia che c'era di mezzo una mantenuta e un gerarca. Gli si erano messi tutti contro, i sindacati e la questura, e per tutto l'autunno era andato a ramengo. Ho fatto il mare fino ai Santi, ci disse. Era lustro, di giacca e di faccia. ghignava sempre perché aveva le due pieghe sulla bocca. «Sai com'è?» disse a Linda. «La rivista che diamo stavolta l'ha scritta il più porco. Ci ha messo dentro anche gli ebrei». «Sono contento che impari», gli disse Lubrani, guardando noi altri. «Il tuo mestiere è fare il comico, sfruttar la gobba e fare il comico». «Tu ci sfrutti la gobba», disse Carletto. «Quando è che ci prendi a Torino?» Fu così che si misero a parlare del contratto. E Lubrani era un altro, posò la cicca e non ci dava più da bere. Linda fumava con gli occhi al soffitto. Solamente Carletto continuava a scattare, a rivolgersi a noi, masticare le noci. Dopo un po' chiesi a Linda se veniva a passeggio. «Dice davvero che dovevi far l'attrice?» Salivamo una viuzza che pareva in montagna. Linda rise, imbronciata dal naso. «Lo diceva Lubrani, che scemo!» Le dissi allora che quei tempi da bambina mi facevano rabbia. «Chi credevi che fossi?» «Pagherei per conoscerti allora. Tu conoscevi tanta gente. Non hai voluto tu, davvero? Vuoi che cantassi se non so? Non sono mica un'esaltata. Allora vedi che ho ragione a non suonare la chitarra». La salita sbucava su un corso che era come un balcone. Mi vidi dietro una collina tutta fatta di scale e di case e davanti il mare basso come prima. «Ma tu puoi», disse Linda. Vide il mare e anche lei si fermò. «Fumiamo una sigaretta», poi disse alla balaustra. Gliela accesi e guardammo. «Che giornata», disse Linda. «Ieri neve, oggi sole. Sai che Carletto mi fa rabbia?» «Quando nevica il mare non cambia colore», dissi. Linda rise con me. «Non l'ho mai visto che al cinema», dissi. «C'era un tepore che sapeva di giardino. È questo l'odore del mare?» Poi le dissi: «È ben scemo Carletto a venirsene via». Linda mi disse: «Vuoi bene a Carletto?» «Senti», le dissi, «quest'estate ci torniamo. Ho bisogno di soldi. Voglio fare qualcosa per stare con te. Dammi un lavoro, coi tuoi sarti, qualcosa. Vado in giro, prendo il treno. L'ha fatto Amelio, posso farlo anch'io. Voglio stare con te giorno e notte». Linda lasciò che la baciassi contro il ferro. Non mi diede la bocca. Si lasciò toccare gli occhi. «Andiamo a prendere il caffè», disse piano. Nel caffè parlammo ancora di Carletto. «È un disgraziato», mi disse. «Si fa mettere a spasso così per capriccio. Anche Lubrani dice sempre tutto in faccia. Stava già bene? No, signore, se la piglia col fascio. Ma adesso lavora di nuovo. Chi comincia è finita. Senti», mi disse, pigliandomi il braccio, «non fare mai niente contro il fascio. Prometti?» Aveva gli occhi spiritati. Non so se faceva per burla. La calmai, ridendo anch'io. Poi ritornammo nel vicolo. Li trovammo seduti tra i fiaschi e tutto un piatto di fotografie. «Chi è questa?» diceva Lubrani. «La tale. Non ha gambe. Neanch'io». Linda disse di smetterla di venire a passeggio. Carletto rideva cattivo. «Sei venuto a cercarci. Vuol dire che sai che valiamo dei soldi. Devi prendere quel che ti do». «Facci vedere la Dorina», disse Linda. «Li hai trovati in quel posto», disse Lubrani. Carletto allora non parlò, ghignava sempre. Si alzò in piedi, raccolse le foto, prese Linda per mano e disse a me: «Si va a sentire un po' di musica?» Linda ci stava. Io mi volsi a Lubrani e gli dissi: «Si va?» Salimmo tutti sulla lancia, io vicino a Lubrani. Infilammo quel corso e per un pezzo costeggiammo il mare. Dietro Carletto discorreva come niente fosse stato, raccontava a Linda che voleva cambiare genere e fare il varietà come una volta. Lubrani disse: «Che piacere mi faresti». Ci fermammo a un locale che dava sul mare. Dalle vetrate si vedeva il sole e l'acqua. Mi stupì che la gente ballasse come fosse a Torino. Lubrani disse: «Tu che dici? Fa ballar Linda e poi vedrai». «Lo so che Linda ti fa gola», gli rispose Carletto, «ma Linda ha la testa sul collo». Mi strizzò l'occhio, si alzò in piedi e chiese a Linda di ballare. Mi fece effetto quella schiena gobba che Linda abbracciò. Li guardavano. Mi venne in mente che anche Amelio era uno storpio. Lubrani disse: «E noi beviamo, caro mio». Carletto e Linda ritornarono ridendo. Avevano visto una bionda ballare con un moro in giacca nera e dicevano: «Insieme faranno la crema». Ballai con Linda e ballando le dissi: «Mi piace Carletto». Sul tavolino fra le tazze risaltarono fuori le foto. Linda di nuovo le fece passare. Io avevo intravisto dal vetro l'acqua rompersi su certi pietroni a strapiombo nel mare. Guardai qualche foto. Questa qui, ci diceva Carletto, era forte, grassoccia, con la pelliccia sulla pelle per malizia. Questa è Dorina. Anche Lubrani la studiava. Linda disse: «Mettetela a dieta». E Carletto: «Non so, meno mangia e più ingrassa». Non tutte, diceva Lubrani nel fumo del sigaro. Prese poi la foto di un attore. «Ah, sei tu», disse senza guardarla. La guardammo io e Linda. Era in nero, elegante, pettinato da ballerino, chinato in avanti. Non sembrava nemmeno Carletto. «Ma è bello», le dissi. Linda rideva. «Cosa credi, di essere bello tu solo?» Lui e Lubrani discutevano su un gruppo di ragazze. «Me ne mancano due che han cambiato mestiere». «Quanto avanzano?» disse Lubrani. In conclusione, non voleva che Carletto. Lui, Carletto, diceva: «Ma vieni a sentirci. Starei fresco, le donne si trovano, ce n'è dappertutto». Io guardavo dal vetro lo strapiombo del mare. Ascoltavo l'orchestra e pensavo all'estate. Mi venne in mente la chitarra. Avrei voluto andare con Linda a mezzanotte sulle spiagge e suonare, abbracciarla, star solo con lei. Quella notte, che aveva perduta la sciarpa, era sola sul mare. Se soltanto riuscivo a toccare l'estate. Carletto disse: «Ti dico che ho impegno, non posso mollarti così, vuoi capirla?» E rideva, cattivo. E Lubrani: «La prova l'hai fatta, tu devi solo fare il comico e sfruttarti. Mangiate, sì o no? Questo è il punto. Se non mangiate è colpa vostra». Carletto disse: «La rivista è bella, è piaciuta perfino ai giornali». Tirò fuori i giornali. Lubrani schiacciò il sigaro e si guardò intorno. «Non volete ballare?» disse a me. «Che ora è?» Quando tornammo da quel ballo, era fatta. Lubrani chiudeva la penna e Carletto studiava il bicchiere. Ci lasciammo alla macchina. Ci disse: «Saluto», con un'aria leggera. Linda gli disse: «Vieni presto», con l'allegria che hanno le donne. Poi si cacciò tra le coperte. Partimmo, così, sotto il sole. E l'ultima cosa che vidi furono quelle colline spelate che sembrano cenere. A Torino arrivammo di notte. Lasciammo Linda alla porta di casa. «Sto male», diceva. Scappò col naso nel paltò. Lubrani disse: «Andiamo a cena». «Non ho un soldo». Sciocchezze. Quella sera mi disse che aveva paura di averci colpa nel malanno di Linda. «Non più tardi di ieri l'ho portata in piscina», mi disse. «Tu non vai?» «Già, bisogna essere soci. È un ambiente ristretto. Scaldano, sì, ma si fa presto a prendere freddo». «Non lo sapevi? Non ti dice queste cose?» Quando capì di avermi in mano, andò deciso. «Linda non dice molte cose, ma le fa. Ne ha bisogno, come tu, di fumare. Non ci pensa due volte. Tu ci pensi due volte quando respiri la boccata?» Aprì la bocca e lasciò uscire il fumo, adagio. «Hai fatto caso quando parla con qualcuno? Sembra che aspiri una boccata, anche con te. Non ci pensi, alle volte?» «Sembra che aspetti», disse brusco. «No? Sembra che aspetti una parola o qualcosa, e invece no, te l'ha già fatta». «È un peccato che sei senza soldi», riprese, «perché tu credi che le donne corrano soltanto dietro ai soldi. Sei sicuro che prima di te non ne avesse uno meglio?» Dissi: «E con questo? Non crederai di interessarla perché suoni la chitarra. È una cosa ridicola, chitarra e fumo sono la stessa cosa. Tu che vendi tabacchi dovresti saperlo». «Stai zitto», pensavo, «stai zitto», e guardavo quegli occhi irritati. Ma lui pagava la cena e dovevo ascoltare. «So tutto quanto», dissi adagio, a voce bassa. «Lo so meglio di un altro. Cosa conta?» Si mise a ridere e mi disse che scherzava. «Non si può stare sempre insieme, è un fatto. Ma è venuta soltanto con me. Linda è una donna, eppure credo che con me sia sincera. Se non ti ha detto che andava in piscina è perché non ci andava. Da quanto tempo la conosci, Pablo?» Non gli risposi e lo guardai. Ci guardammo. Gli dissi senza dare importanza: «Cos'è che le donne non corrono dietro ai quattrini?» Fece lui soddisfatto. Chiamò il cameriere. Corrono dietro a tante cose, non soltanto ai quattrini. Senti, mi disse con un'aria d'affari, non ci sono eccezioni. Io le donne le faccio spogliare per sapere chi sono. Tutte quante si spogliano. Non ci stanno a pensare. Una donna che sa quel che vale si spoglia. Ma con questo non credere. Vogliono altro le donne. Sono tutte ambiziose. Ce n'è che vogliono l'amico del cuore. Ce n'è di matte. L'hai mai vista una donna ubriaca? Ce n'è che cambiano amico soltanto per picca. Sui quattrini ci sputano. Meno male, gli dissi. Piantò una mano sopra il conto e lo pagò. Volevo dirti, disse poi mentre uscivamo, che l'idea di suonare in un teatro è balorda. Non ti bastano i sali tabacchi? L'indomani andai presto da Linda, passando in mezzo a tante sarte. Mi disse di chiudere, ma non volle che entrassi nel letto. Ho la febbre, disse. Non le parlai della piscina. Lei diede la colpa a quel sole di Genova e al freddo del viaggio. Sei contento che sono malata, mi disse. Mi tieni qui e mi puoi picchiare. Ti piaceva Carletto? Si parla sempre della gente. Chi ne parla? Ma ieri Carletto e quell'altro. Sempre. Di chi vuoi che si parli? Non siamo mai noi due soli. Se sei qui stamattina, ti dispiace? Vattene. Poi disse ancora, che cos'hai? Cosa vuoi? Gli avessi detto tutto quanto quel mattino. Ero seduto sul letto e le parlavo. Mi prese una mano e se la appoggiò sulla guancia. Mi abbassai per baciarla. Ti do il raffreddore. Posai la testa sul cuscino e dissi piano, stiamo insieme quest'oggi. E poi? Poi mi cerco un lavoro e ti sposo. Bravo lui, disse ridendo. Io le tenni la faccia vicino e non dissi più niente. Dopo un poco mi chiese, siamo già insieme, che vuoi d'altro? Non le dissi più niente. Allora Linda non si mosse, respirava. Stemmo insieme così chissà quanto. Mi ero scordato che stavo con lei. Linda cercò sotto il cuscino il fazzoletto. Mi toccò muovermi e lei disse tranquilla, questa vita che faccio mi piace, perché vuoi che la cambi? Devi abituarti alla mia vita. Io non voglio dipendere da te né dagli altri. Nemmeno tu devi dipendere da me. Sei geloso? Hai ragione, riprese. Vorrei vedere non lo fossi. Anch'io sono gelosa. Devi occuparti e non pensarci. Perché non suoni la chitarra? È un lavoro per te, non hai altro. Puoi diventare un buon solista. Quel mattino bussarono all'uscio e una brunetta col grembiale da commessa chiese a Linda se voleva il caffè. Me lo fa lui, disse Linda, è il mio dottore. L'altra, ridendo, scappò via. Da quel giorno mi misi a cercare un lavoro, girai dappertutto e in negozio ci stavo soltanto il momento di uscire. Si parlava di nuovo di Amelio e l'idea di vederlo spuntare tra i vetri, appoggiarsi alla porta, aspettare, mi metteva a spavento. Sua madre disse nel negozio che perché lui potesse uscire ci sarebbe voluto l'ascensore. Vadano a stare al pian terreno, disse una donna che sentiva. Io sapevo che Amelio non sarebbe venuto a cercarmi, ma guardavo lo stesso la porta. Se ha fatto il matto è colpa sua. Non riuscivo a trovare un lavoro, ma sapevo che lui nei miei panni ne avrebbe trovato. Qualcosa faceva anche da letto, se no li avrebbero già messi sulla strada. Doveva vendere, comprare, questo è certo. Linda rimase nella stanza qualche giorno e teneva consiglio con le ragazze della sartoria. Venne una volta una signora per un abito e chiese di parlare con lei. Non si fidava che di lei. Guardarono i figurini e i giornali in francese. Linda mandava avanti e indietro le ragazze. Sapeva fare, ordinava da letto e tutto ridendo. Le parlò di signore, di attrici, di mode sportive. Del resto, Linda nella stanza aveva un mobile di specchi e un tavolino elegante con spazzole e pettini che sembravano cose da bar cristallo o da profumeria. Piace anche a me vestirmi bene, ma per Linda era più che vestirsi. Sapeva vivere in quel modo e discorreva, diceva, se avessi una casa vedresti. Alle volte girando con me si fermava a guardare le vetrine e sapeva dove erano le cose più fini, certi negozi che io passavo senza accorgermi nemmeno. Camminare con lei per le strade era sempre un piacere. Se avessi avuto anch'io la lancia, saremmo stati come ricchi. Aveva una bella valigia di pelle con le targhe e mi disse: da quanto non viaggio. Quando guarì, la portai sotto a cena. Andammo dove ero stato con Lubrani. La prima cena, noi due soli, disse lei. Aveva un modo di mangiare affamato, con occhi golosi che metteva la smania. Mi piace viaggiare, disse. Non sai quanto è bello arrivare la sera in un'altra città. Viaggiare sola, mi diceva. Cambiare abitudini, casa, città, piantare ogni cosa e per un mese, per un anno, essere un'altra. Tu lo sei sempre un'altra, dissi. Lei rise. Riuscivo a farla ridere volendo. Era come suonare. Ci sono dei gesti, dei versi, dei trilli che si fanno per burla, per tirare con te chi ti ascolta, come dare un'occhiata, far finta di niente. Viene un momento che si fa senza pensarci. Linda capiva queste cose. Mi guardava come aspirasse la boccata. Mi metteva la mano sul braccio e mi guardava. In quei momenti avrei potuto dirle: andiamo a far l'amore, che sarebbe venuta. Se guadagno dei soldi, le dissi, vengo al mare con te. Chi ti dice che vado quest'anno? Mi disse ridendo. Quella sera nevicava, ma andammo a ballare al paradiso e sprofondammo nella neve sotto il viale. Linda disse ci vorrebbe Lubrani. Invece trovammo Lili, che ballava felice e mi fece un saluto e gridò nella musica. Linda mi disse guai a te e mi portò in fondo alla sala. Stemmo tutta la sera noi due, ballando e ridendo. Mi raccontò di quando al mare a Sanremo s'era andata a bagnare da sola in barchetta e una volta al largo s'era tolto il costume e preso il sole dappertutto. Si sta bene, mi disse, dovremmo stare sempre nudi, tutti quanti. Se la gente uscisse nuda per strada sarebbe più buona. Non ci vai in piscina? No, mi disse, è acqua sporca. Poi uscimmo. Era bianco e gelato tra gli alberi e cercammo tra le macchine se si vedeva la lancia. Ci toccò ritornare col tram. Con la neve a me piace fumare e passeggiammo sotto i portici a finire la sigaretta. Poi entrammo in un bar. Che cosa ti dicono a casa che sei sempre in giro? Quel poco che sto li tormento suonando. Studio sempre. Qualche sera dobbiamo passarla a suonare. Al varietà devi venire, non ci vai mai. Devi provare con Lubrani. Non mi piace Lubrani. Eravamo sull'uscio di casa. Vuoi salire? Mi disse. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.